Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera e domani sera ci occuperemo di un tema molto rilevante sia per quanto concerne il miglioramento del ciclo dei rifiuti, sia per quanto concerne la competitività delle imprese. C'è un'espressione ben precisa per definirlo: simbiosi industriale. Per parlarcene, in linea con noi c'è Laura Cutaia, ricercatrice dell'ENEA, che è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Buonasera Cutaia. Buonasera. Dunque, lei è impegnata in un progetto pilota di simbiosi industriale che verrà realizzato in Sicilia e di cui si parlerà nel corso di un convegno domani a Rimini all'interno della Fiera di Ecomodo, che ricordo a tutti è iniziata oggi e si concluderà sabato. Allora Cutaia, prima domanda è: che cosa si intende per simbiosi industriale? Simbiosi industriale vuol dire trasferimento di risorse tra industrie dissimili, tra aziende dissimili, per fare in modo che il sottoprodotto di una possa essere utilizzato come input dall'altra. Quelle che spesso sono anche considerati dei rifiuti, diciamo, che altrimenti sarebbero considerati dei rifiuti, che invece possono diventare materia prima per un'altra realtà industriale, no? Esatto. Facciamo qualche esempio. Ma scarti di costruzione e demolizione che possono essere utilizzati per la produzione di aggregati, ad esempio. Oppure, nel senso, di recente noi abbiamo parlato di un sistema per trasformare le penne di pollo in pannelli termoisolanti, no? È un rifiuto anche molto difficile da smaltire, invece di smaltirlo può diventare materia prima per una impresa che è in grado di trasformarli in qualcosa di utile, di utilizzarli utilmente. Assolutamente, no? ci sono innumerevoli esempi, diciamo, alcuni molto semplici, alcuni estremamente complessi, sofisticati, certo. Sofisticati di riutilizzo di varie tipologie di rifiuti. Anche i vantaggi sono abbastanza chiari, no? Ce ne sono molti. I vantaggi sono tanto per le imprese che sono direttamente coinvolte, le quali l'impresa che produce i rifiuti vede in una volta sola, diciamo, diminuire i costi di smaltimento, gli oneri anche, diciamo, di trasporto, eccetera. Tra l'altro può avere anche un vantaggio economico diretto se la merce, diciamo così, che vende ha un valore commerciale che gli viene riconosciuto. Sì, o risparmia sullo smaltimento o ci guadagna proprio, perché addirittura questa roba può avere un valore economico, esatto, per l'altra azienda che se la compra, che altrimenti, esatto, dovrebbe comprare una materia prima pagandola, certamente. Pagandola magari a un prezzo più elevato pure. Più elevato. Insomma, ci sono molte economie qui dentro, ma allora uno dice: vabbè, ma basta farlo, perché non si fa allora? Perché c'è bisogno di un progetto che voi state sviluppando adesso in Sicilia, diciamo in forma di progetto pilota, perché c'è bisogno di questo per far partire una roba che sembra produrre solo vantaggi? Diciamo che la simbiosi industriale non è una scoperta né recente né dell'ENEA, insomma. E neanche dell'ENEA, diciamo che quello che noi stiamo cercando di fare è farla diventare un'attività sistematica, per cui le aziende in maniera sistematica approcciano il problema degli scarti cercando di trovare prima di tutto delle soluzioni di riutilizzo e poi eventualmente come soluzione residuale lo smaltimento. Smaltire le cose che eventualmente residuano. E certo, e non smaltire sempre. E quindi che cosa serve per attivare questo meccanismo virtuoso? E voi ci state lavorando? Noi stiamo costruendo una piattaforma, che è una piattaforma anche informatica, basata sulla raccolta dei dati delle singole aziende. Le singole aziende devono partecipare a questa iniziativa fornendo loro in maniera proattiva i dati che le riguardano. Quindi, cioè, per esempio, loro che tipo di rifiuti producono e in quali quantità, no? Esatto. Per esempio, quali sono gli input che utilizzano in ingresso. Certo. Perché certo, io ho tanti input, ho tanti output, e magari riesco a far incrociare degli output con degli input. Ecco, cioè, per esempio, mettiamo che un'azienda abbia determinati scarti, potrebbe interrogare questa vostra piattaforma chiedendo quali aziende della Sicilia, per esempio, utilizzano quella roba lì come materia prima. Non direttamente, perché noi stiamo costruendo questa struttura in maniera tale che i dati delle singole aziende siano protetti da perché di... le aziende non sono tanto contente di dare quelle informazioni, perché dicono molto sulle loro attività. Insomma, esatto. Noi facciamo da filtro, primo per le aziende, perché le aziende sanno che i dati che ci vengono consegnati li vediamo solo noi. Certo. E secondo, noi abbiamo, diciamo, elaborato un protocollo di acquisizione di input e di output che consenta di uniformare le informazioni che vengono gestite, cioè di parlare tutti la stessa lingua. Certo, perché diciamo, c'è un problema non banale anche solo a identificare in modo univoco questi materiali, no? Esatto, questi flussi, identificarli in maniera univoca e fare in modo che la lingua degli output, che tipicamente è la lingua dei rifiuti, in qualche modo viene messa in comunicazione con la lingua degli input, che parla un altro linguaggio. Ci sono tutti dei codici apposta, per esempio, per i vari tipi di rifiuti, anche per i vari tipi di materie prime, però sono due mondi completamente... Che non si parlano. Allora, Laura Cutaia, ci fermiamo qui per stasera, però riprendiamo domani, perché... ci sono varie problematiche un po' all'italiana, purtroppo, mi spiace dirlo, io uso raramente questo termine, che rendono tutta questa operazione particolarmente difficile. Ne parliamo domani. Grazie. A domani.